Dialoga. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. So che è un tema che non è molto nelle corde del momento attuale, ma ne voglio parlare proprio per questo. Vi siete resi conto che non abbiamo più dive? Perlomeno nella nostra limitata, se volete, realtà nazionale, che è sempre stata considerata in passato luogo di scaturigine eccezionale di dive, non abbiamo più nulla. Voi immaginate cos'era come alimento dell'immaginario, ma non soltanto maschile, anche femminile, perché la diva è intesa come il punto di riferimento più alto, colei che assomiglia a una dea, colei che fa della bellezza, del fascino, dell'apparenza, una sorta di angelica maniera per porsi di fronte al mondo. Non le si chiede altro, è talmente appariscente, bello, impalpabilmente, profondamente ci coglie, ci colpisce il suo passaggio, che non le chiediamo altro. Non le chiediamo una condotta etica, non le chiediamo di avere una morale, non le chiediamo di renderci conto della sua vita privata e personale, non le chiediamo conto del suo carattere, del suo livello di istruzione, niente. Ella passeggia e si fiorisce un prato ovunque ella passi. Beh, ne abbiamo avute in passato di persone del genere, ne abbiamo avute tantissime, e mi rendo conto che oggi l'Olimpo che produce le idee del nostro immaginario ha chiuso le sue porte, si è come esaurito, si è come prosciugato. Abbiamo delle pallide riproduzioni, le lontane eco di quello che furono le antiche dive. Quali sono le dive contemporanee? Non lo so. Io guardavo ieri con sorpresa su Facebook un post che passava di signora in signora, anche tante amiche mie, anche politicamente correttissime, femminilmente all'avanguardia, guardano delle foto improvvisamente riapparse, tanto riappaiono delle foto di Marilyn Monroe, caruccia, sì, carina, fresca, non artefatta, tutti dicono bellissima, stupenda, impagabile, unica. Ancora siamo a Marilyn Monroe, che poi in realtà bella donna affascinante, è diventata un'icona vivente, è diventata un marchio, un brand, ma non è che facesse nulla a parte i film che ricordiamo di diverso da quello che faceva Ruby Rubacuori. Frequentava uomini potentissimi e grazie a questi aveva un facile accesso allo star system. Che poi il fatto che sia morta giovane, sia morta in circostanze tragiche e misteriose, il fatto che sia oggettivamente una diva a tutti gli effetti, ci appaga la sua immagine, non voglio solamente porre limiti, fa sì che sia entrata in questa sorta di Olimpo, e ancora rimane lei perché non ce ne sono altre. Vedevo anche l'Isola dei Famosi, vedevo Valeria Marini, che è stata considerata la Marilyn italiana, una delle più belle donne italiane. Vi ricordate? La Marini e la Parietti erano, diciamo, come il Castore e Polluce al femminile, che attraversavano l'Olimpo della nostra televisione. E Valeria Marini, che veniva presa in giro da tutta quella artificiale checcheria costruita in quei reality apposta per dare spessore, e diceva: ma se c'è una cosa che ho bella è il mio corpo. Dice: ma io su queste cose mi scivolano. Non so perché, non so se Malgioglio l'aveva presa in giro, gli ha detto: ma dove vai? Ha ragione, devo dire. Dice: ma se c'è qualcosa di bella di cui sono tranquilla è il mio corpo. Ma io, mamma mia, non voglio essere impietoso, ma non ho nulla a che fare con le Lucia Bosè, con le Sofia Loren, con le Fenech, con le Barbara Boucher, con le Claudia Cardinale, con le Silvane Mangano. Andando avanti nel tempo, a un certo punto scompare. Questa fabbrica dell'immaginario improvvisamente non fornisce più nulla. Sapreste aiutarmi oggi nel caso che il mio motivato, profondo, irreversibile calo di treno me l'avesse fatta vedere? Chi oggi potrebbe essere considerata una diva dal mondo del cinema, dello spettacolo, della televisione? La Clerici, la Caveglio, non so, la Bignardi, trovatemi qualcosa anche di molto appariscente. Belen, ecco, Belen Rodriguez, ma l'abbiamo vista anche nella più intima e personale applicazione di tecniche orali specializzate, e questo, nonostante questo, non riesce a passare, non passerà la storia, Belén Rodríguez. Beh, datemi una mano voi, perché oggi, con Giuseppe Sansonno qui in studio, cercherò di farvi ricordare quello che era il passato. Datemi voi il segno dell'attualità, visto che io non riesco più a vederlo. Guarda, io pago, Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene. Non sprecarti. Non sono una cuoca io. Aspetta nella sala. Fa caldo qui vicino ai fornelli. Hai le spalle come un cavallo. E ti fa impressione un po' di caldo. Guarda. Dai, togliamo, sennò si ammoscia il pubblico soltanto a sentire il doppiaggio di questo film. 800 24 00 24, siamo alla ricerca della diva perduta, ma la diva perduta che viva nella nostra contemporaneità, e Giuseppe Sanson, che appartiene a un altro millennio, ci propone Clara Calamai. Nessuno si ricorda chi è, figurati. Io sono un anacronismo vivente, come è noto. Clara Calamai qui viene impiegata nel film d'esordio di Visconti, che è Ossessione. In tutta la sua torrida sensualità viene strappata ai telefoni bianchi, alla compostezza di quegli interni, e portata negli ampi esterni della bassa ferrarese fra le paludi. E qui c'è molta carne al fuoco. Vabbè, c'è un castissimo scapezzolamento che nella cena delle beffe. Nella cena delle beffe, questo è passata alla storia. No, però lei che effettivamente emana desiderio, questo fu scandaloso. Fu scandaloso all'epoca questo film. Perché non c'era alternativa. Però appunto noi partiamo dalla scaturigine, dall'origine del mondo di Courbet, che già citammo nel video di stamane. Insomma, è il primo film in cui si vede il desiderio femminile, perché Girotti a torso nudo, scolpito dal lavoro, cioè l'operaio, come se lo immaginava l'aristocratico marxista Visconti, diventa oggetto osservato dalla Calamai, e questo è il lato particolare, cioè la soggettiva della donna per la prima volta, quindi c'è una sorta di cortocircuito erotico. Cioè il cinema rivelava che la donna potesse avere un desiderio carnale. Certo, questa è la particolarità. Ha un marito che Gino cerveggia nel suo fisico, quindi un marito grasso e ricco, mentre Girotti è il vagabondo, quindi rappresenta l'irruzione dell'anarchia, il vagabondo che seduce, il randagio che seduce, e poi tutto finirà e si degraderà, quindi nel gorgo del noir, dal postino suona sempre due volte di James Cain, dal romanzo americano che Visconti aveva già adattato con Renoir. Quindi c'è questo tipo di situazione, questo triangolo che innesca una sorta di noir, però calato in questa... E ha cominciato a gettare qualche inquietudine probabilmente nelle famiglie italiane. I vescovi benedicevano le sale dopo questo film, cioè c'era Vittorio Mussolini. Dopo aver benedetto le salme delle persone che andavano a vedere questi film. Diciamo le sale perché era passato il peccato. Sì, perché io immagino, non ho presente il film nella sua interezza, ma immagino che in realtà si usciva dallo stereotipo della donna perduta, la donna che a seguito di terribili intempere nella sua vita ha scelto la via della perdizione, quindi diventava una femme fatale. Questa era una normale moglie che a un certo punto prendeva atto delle proprie pulsioni, probabilmente non giustamente osservate, soddisfatte, condivise da un marito occupato magari alla sua posizione, al suo lavoro, alla contemplazione di se stesso. Un marito padanamente grasso e ricco, che insomma rispetto invece a Girotti, che è povero però comunque ha questa sensualità fortissima, crea una sorta di discrasia molto forte. Ecco, guarda come è stata la reazione del pubblico. La prima persona che dà un palpito di reazione a quello che diciamo è un'ascoltatrice, Emanuela, che mi scrive su Facebook e mi dice: Moana Pozzi fu la vera diva. La vera diva, probabilmente nella mia memoria c'era questo vacuum, ma la ritenevo una pornostar, fine, non trovo il divismo, trovo che sia stata una sorta di fenomeno intellettuale che le è stato appiccicato addosso, era una rispettabile pornostar, non trovo questo alone di divinità su Moana Pozzi. Bisogna intendersi sul concetto di diva. Dive erano la garbo, persone di cui non sapevamo nulla, che non abbiamo mai visto in pianelle, in ciabatte o con il termometro in bocca, insomma, di cui non sappiamo. Tu hai detto prima, Belén Rodríguez è stata sezionata in ogni centimetro. Però aggiunge l'ascoltatrice in questo strano dialogo: Moana Pozzi fu vera diva, Oggi la donna, agli occhi degli uomini, deve essere completa, far vedere tutto, il suo corpo e tutte le sue capacità amorose. Questo lo dice lei, lo dice una donna. Cioè, non credo che sia così, è un'opinione di una signora, però magari se altre signore, e mi interessa il punto di vista femminile, soprattutto perché la bavetta dei maschi la conosco sin troppo bene, e potremmo fare un elenco da Moana in su o in giù, secondo il punto di vista, dei loro punti di pulsione. Ma le donne che sono le più capaci, le più attente, le più implacabili osservatrici della femminilità, vorrei questa mattina chiamassero all'800 24 0024 e mi aiutassero a trovare la diva perduta del nostro tempo. Pronto, sei tu? Guido! Guido, sono secoli che non sento la tua voce. Come mai a quest'ora? Ma certo, domani se vuoi. Ho voglia di stare un po' con te. Dove vuoi? Se potessi verrei subito. Sei formidabile. Come hai fatto a diventare così? Come così? Non so, hai qualcosa, hai classe. Anche tu sei cambiato. Ti sei messo a fare complimenti. Da quando ci conosciamo è la prima volta. Gli anni passano e ci si lascia andare. Ho visto subito che eri diversa. Forse gli occhi sono più scuri. E poi tutto. Sei più maturo. Per forza, con quello che si è passato. Ma lasciamo andare. Parliamo di noi. Anzi, di te. Tu cosa hai fatto di bello? Ti sei sposata? Guido. Allora, Samsonite... Siamo ancora nel passato remoto, però tiriamolo fuori, visto che... No, ma parlando di dive, questa per esempio è la Lucia Bosè di Cronaca di un amore, che è il film d'esordio di Antonioni del 1950. Sì, ma Lucia Bosè ha il grosso limite di essere ancora viva e presente. E con adesso ha i capelli blu, è terribile. Cioè, ma infatti uno degrada... Non può essere diva una persona che è viva. Insulta la propria icona. Però tornando per esempio al discorso, volevo spezzare una lancia su Marilyn, perché tu un po' l'hai un po' relegata. No, non l'ho banalizzata. No, figurati, volevo solo dare una penna. È usurata da l'ipercopertura. Era un talento vero Marilyn, sì. Nei film di Billy Wilder era strepitosa, leggeva il monologo di Molly Bloom in teatro, insomma aveva delle virtù notevoli. Ma non le nego, però aveva anche una, cioè, rispetto a Valeria Marini, che è un cerniotto ossigenato lì spiaggiato, quindi c'è un divario enorme, anche perché di quel cerniotto sappiamo tutto sui giornali, sulla di lei c'è ancora il mistero, è stata ammazzata, uccisa, una supposta avvelenata, suicidata, c'è ancora un mistero, supposta avvelenata, sì, la CIA dicono c'è anche questa cosa, supposta avvelenata, Invece tornando a Lucia Bosè e a Girotti, che rappresentava sempre questa innocenza, colpevolezza col suo viso, con i suoi occhi ceruli, qui racconta, Antonioni racconta l'eredità spirituale di questa borghesia milanese, in cui appunto il bel Girotti, che però è incapace di fare denaro, viene lasciato da Lucia Bosè, che anche qui, come la Canamai, trova un uomo ricco, e quindi sono costretti a separarsi, si ritroveranno per una sorta di intrigo noir. La bellezza è che nonostante non fosse ancora un'attrice la Bosè, perché era agli esordi, queste lunghe inquadrature di Antonioni rendono molto bene la sospensione di questi personaggi. Fermaci qua, basta, no, andiamo avanti gli ascoltori, finalmente qualcuno, e devo dire che mi stanno dando grandi sorprese, piacevoli sorprese. Marco, buongiorno, chi è la diva del momento? Buongiorno. Sì. No, io dicevo solo che rispetto a una persona come Greschelli poteva essere considerata Ragna di Giordania. Greschelli però ha fatto l'attrice. Sì, sì. Sì, questa non l'ha fatto, ma se lo facesse... Però galleggia su Twitter ogni tanto, poi c'è questo mistero della donna che viene da un paese in cui la donna è molto segregata, e quindi si immagina sempre cosa può esserci dietro questa sorta di temperamento bloccato, fermato, in qualche maniera... Si sa molto poco di lei, se non i suoi tweet, se non le sue cose benefiche, se non il suo sorriso. Questo è, secondo lei, una bellezza vera. No, bella è bella, indubbiamente è molto bella. Lei trova che oggi, ecco, se uno dovesse dire una diva contemporanea, è appunto Ragna di Giordania. Mi sta bene, questo potrebbe essere un buon inizio. Marina. Buongiorno a entrambi. Forse sono fuori tema, perché ieri sera mi è capitato di vedere uno splendido film di Mankiewicz, che è Eva contro Eva. Uh-huh. Del 50, un film un po' vecchio. Non è vecchio per niente. Uh-huh. E la Bette Davis con il viso impiastato di crema, perché si deve cambiare per lo spettacolo. Ecco, io forse ho sbagliato, perché ho unito il fatto di essere diva è importante come il fatto di essere un'attrice brutta, e per quell'epoca era un sacrilegio, ma enorme, forse la più grande americana di tutti i tempi. Credo di essere fuori tema perché voi invece prendete in giro, io francamente non sto prendendo in giro, è la mia maniera di pormi di fronte alla realtà, che non è mai una maniera molto snob. No, insista su questo snob, perché scusi? No, non è così. Io non ho idolatrie per nulla al mondo, quindi mi pongo di fronte alla realtà in maniera... Idolatrie per Belen è difficile avercele, voglio dire. L'ho detto all'inizio, non è nemmeno per Bette Davis. Non coltivo idoli umani, ecco, diciamo così. Questo neanch'io, però nell'accezione comune. Ma perché se la prende tanto? Non solo sapere questo, ho offeso qualche sua intima convinzione? Forse non ho appunto detto... Mi ha dato dello snob, che non è un complimento. Lo prendo, mi sta bene, figuriamoci. Tiene nobilità, anch'io sono snob. Ma io no, però. Io non mi sento affatto snob, assolutamente. E, ripeto, forse sono fuori tema perché per me una diva deve comprendere tutto. È il suo punto di vista, lo rispetto. Sì. E, la signora Davis, un po' come adesso la signora Strip. Come Meryl Streep, dice. 60 anni, 62 anni, non so se sia fatta o rifatta, comunque una persona che supera la bellezza, che supera e che però lascia... Cercavo, se mi permette, di circoscrivere un po', il mio è un provincialismo che manifesto, come vede tutt'altro che snobistico, circoscrivere le nostre latitudini. Stavo cercando di individuare il divismo prodotto da casa nostra, visto che stiamo tanto parlando del Made in Italy, fra i tanti prodotti che probabilmente non ci contraddistinguono come luogo di santi, eroi, navigatori, poi sorvoliamo sui navigatori, poi quello della produzione di donne affascinanti. Non le stiamo producendo più, non so perché, produciamo dei modelli molto stereotipi, non la prendo con nessuno, sarei io felice e contento e dirò ecco finalmente nasce una nuova diva. Lei è data molto in alto, ha fatto un quintuplo salto mortale, però mi trova una corrispondente di Bette Davis italiana, chi Franca Valeri, non so, mi dica lei se trova qualcosa che merita ancora nel logorio immancabile del tempo mantenere alto il senso ancora di centralità. La diva non è più tale quando poi recita dei ruoli da signora âgée, non è più tale naturalmente, un'altra cosa, rientra in un altro Olimpo, non è Venere ma è Minerva probabilmente, qualcosa del genere, se vogliamo fare dei paragoni mitologici. E allora senta, dopo che la ringrazio, secondo me la diva più attuale è Isabetta d'Inghilterra. Mamma mia. Una regina, di cosa è stata diva Isabetta d'Inghilterra? Nella sua longevità? Nell'accezione, voglio dire, fantastica che si dà alla definizione diva. È stato un gioco facile, è sempre stata circondata da tali farlocchi, uomini e donne, che trovo che in Italia non esista, capito? Io lo trovo di una noia, quando parlano della dinastia d'Inghilterra, trovo una noia mortale. No, dal suo punto di vista. Proprio lei ad essere annoiato per 60 anni a fare le stesse cose è molto facile. Insomma, sempre, meglio che fare la barbona o fare l'impiegata. Un posto fisso come regina. Lo vorrei anch'io. Buona giornata. Mamma mia, questa signora era malmostosa. Si è svegliata male. Mi dispiace, no, dirlo che adesso non c'è più, sembra di parlo dietro. Agostino, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente. Allora, Nicoletti, sto bene, come va? Giorni, torniamo a parlare. Ci sentiamo, caro. No, io purtroppo delle volte magari sembra pure, ma tutto a lui e succede. Sto dicendo che io ho 68 anni, ho avuto l'opportunità di incontrare in via Campania, che non era come oggi, Anita Ekberg. Beh, girava per Roma. Avevo 12 anni. Non soltanto quindi, dentro le fontane, ma girava anche per Roma. No, la incontrai proprio e camminava con la sua segretaria. Io ero un bambino, diciamo. Che impressione le fece? Niente, io rimasi a bocca aperta. Bloccò la sua adolescenza? Sì, esatto. Certo. La segretaria, che sono quelle segretarie del cinema romane, proprio del cinema romano della volta, la segretaria mi fa: ma ragazzi, ma che te guardi? Ma te vergogni? E dico, io rimasi un po' a bocca aperta, un po' no. Allora lei si avvicinò e mi diede un bacio sulla guancia, no? E quindi, baciato da Anita Ekberg. Per quanti anni non si è più lavato con la guancia? No, ma guardi, ma non è, sa, ma mi deve che eravamo, cioè io adesso, oggi, quando lei ha menzionato la Clerici, no, voglio dire, Vabbè, ma io non dopo... Cioè, la diva nel senso, cioè, non esistono più perché non esistono più. Solo le belle donne, i bei visi, mi intende? E qui non è solo perché essere diva è anche avere l'immagine, il comportamento. E come secondo me quello che ha rovinato il divismo oggi, che non esiste, è la televisione. Cioè, per noi vedevamo fino a, diciamo, gli anni 70, la vedevamo nel cinema. E poi era tutto, come dire, e poi nei film, per vedere una diva bisognava andare al cinema. Adesso con la pubblicità, e poi se mi permette, sono tutte uguali. Beh, adesso c'è un fenomeno di... Non ci sono più, no, ma quella è di oggettiva omologazione dei modelli estetici, vale per le donne come vale per gli uomini, e la televisione in realtà corrode. Infatti gli ultimi brandelli di divismo è la televisione degli anni 60-70, ancora ci esaltiamo per le Kessler che dicono se una sa male l'altra la sopprime, è fra l'altro imbarazzantissimo, essendo uguali. Se sa male quella che, cioè, se quella che sta bene si addormenta e pensano sia quella malata la sopprima, è una cosa terrificante. Comunque, se ancora noi ci esaltiamo sulle gemelle Kessler, si vede che da un certo punto in poi si è abbassata una saracinesca nel nostro immaginario, nella nostra mitopoiesi, nella nostra costruzione del divismo, che a un certo punto non ci sono più. Ma io sono convinto che esistano da qualche parte. Vediamo se chiamando all'80024, dopo le informazioni della borsa, 80024 0024, qualcuno riesce a darmi qualche spunto sul nuovo divismo. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Guarda che da te io non voglio niente, sa, non voglio niente, voglio soltanto che tu non ti faccia più vedere, perché sennò, mannaggia Nerone, io ti mando in galera o mi ci mandi tu a me. Certo, certo. Come dici? Ho detto certo, hai ragione di umiliarmi. Ma che c'entra, ma chi vuole umiliarti? Invece sì, perché tanto io lo so cosa credi. Lo so qual è il mio destino, addio. Come sarebbe a dire? Lasciami va, Paolo, è meglio per te. No, quando uno comincia un discorso lo finisce. Che destino? Quello delle donne come me, battere il marciapiede. La notte passarla sul tavolaccio. Fin quando sono giovane qualcuno le aiuta, le paga, poi si vendono per pochi soldi nei porti. I porti? Ma che porti? Ma cosa dici? Su questa scelta sono totalmente d'accordo. Sofia Loren, infatti molti mi stanno scrivendo: dimenticate Sofia Loren. No, non la dimentico affatto. La tenevamo in serbo per il momento clou, quindi il rinizio dopo le informazioni dalla borsa. 80024 0024. Oggi cerchiamo di individuare se esistono forme di divismo residue e sopravvissute nello star system attuale del nostro paese. Abbiamo avuto telefonate varie, si è confuso il senso di diva con il senso di regalità. La diva deve essere anche dotata di un forte senso dell'erotismo, non può essere la regina d'Inghilterra una diva, deve essere un oggetto di desiderio, una donna che è regalmente donna oggetto, ma lo è a livello tale e di astrazione e di sublime e condivisione da parte di uomini e donne, che non è mortificatorio per lei esserlo, deve essere desiderabile, desiderata. Leggo su qualche tweet riguardo appunto il tema che siamo posti. Molti mi dicono Mina, giustamente Mina. Mina ha avuto anche la fantastica idea, forse anche oggi un po' usurata nell'abuso che ne è stato fatto, della scomparsa. Mina è scomparsa, di Mina abbiamo un ricordo fantastico. Mina ha saputo immobilizzare la sua immagine a un certo punto. Oggi anche il problema di molte dive, aspiranti dive o persone che avrebbero i punti per essere dive, che a un certo punto cominciano a mutare radicalmente il loro aspetto corporeo. Ci sono tante gradevoli persone che in realtà diventano sgradevoli per l'accanimento terapeutico nei confronti della vecchiezza. La diva deve scomparire, la diva deve mutare, deve andare da un'altra parte, non deve esserci più, se no non è diva. Altri mi dicono come possono esserci oggi dive quando il massimo del divismo è Satta Melissa che fa le lasagne con le ciabatte. Giuseppe Sansonna. Beh, certo, qui si parla di una società dello spettacolo che omologa e appiattisce qualsiasi cosa, non, esclude il mistero fondamentale per essere dive, e soprattutto per essere dive bisogna avere addosso gli occhi intensi di grandi registi, di grandi direttori della fotografia, come è accaduto per esempio a Sophia Loren, in cui siamo in Peccato che sia una canaglia di Blasetti del 54, in cui lei mostra anche tra l'altro un talento attoriale, qui assume quel tono patetico, vittimista, geniale, che degno del padre nel film, che era Vittorio De Sica. Sono una famiglia di ladri che sviano, appunto, in questa scelta di film di oggi c'è anche il senso delle dive come svianti, cioè l'ingenuo Mastroianni, non ancora divo all'epoca di questo film, che viene sviato, avviluppato da questa famiglia di ladri, e circuito e ridicolizzato. Francesco, buongiorno Francesco. Buongiorno, avevo chiamato proprio per indicare Sophia Loren, che mi sembrava strano fino ad ora non essere ancora stata nominata. A questo punto vorrei solo fare un commento aggiuntivo. Ricordiamo che io non credo non sono ammaliato dal divismo assolutamente. Sì, però comunque... ammaliati no, però mi scusi Francesco, prova a considerare oggettivamente, quando una persona è diva uno può dire non mi metto in sindrome di Stendhal di fronte alla sua immagine, però devo dire che esiste Sophia Loren, è a tutti gli effetti una diva. Chiamato, anzi voglio dire pure di più, Sophia Loren ci ha ammirato addirittura all'estero, è una diva da Oscar, non assolutamente, sì. È una diva a cui confronto impallidisce pure una bravissima Gina Lollobrigida, con cui in passato si facevano i confronti, quindi... Perché si è un po' più risparmiata Sophia Loren, Lollobrigida è andata troppo in salotti televisivi, l'ostentazione dell'età della decadenza, perché la decadenza estetica è un dato oggettivo, uno può dire una bella signora, una gradevole vecchia, ma... Sì, ma non è solo questo, è questo. Sophia Loren ci è proprio ammirata all'estero, ha avuto l'Oscar, e un gradino più su alla bravissima Gina Lollobrigida, per carità. Tutto qua, grazie. Mi fa piacere sentire qualcuno che ricorda il passato, però ancora pochi sono quelli a dare segni sull'attualità, meno Franco. Franco, buongiorno. Franco? Sì, buongiorno. Io so che vi deluderò. No, però... perché lei ha pieno diritto delle sue opinioni. Sarò banale, ma purtroppo ogni periodo ha la diva che si merita. La diva adesso è Simona Ventura. Secondo lei Simona Ventura? Cerchiamo di analizzare perché, in cosa è diva la Ventura? Ma sì, perché rispecchia la tamarragine del nostro tempo. E le donne, se tu chiedi una ragazza adesso... Ma Melissa Satta è molto più tamarra, se proprio vuole. Io non la conosco personalmente Simona Ventura, è quello che mi trasmette, poi magari non lo è, ma se lei adesso chiede a una ragazza che intraprende la carriera, che vuole intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, qual è il tuo modello? Belen. No, Simona Ventura ancora, perché pensano che Simona Ventura rispetto a Belen sia professionalmente più valida. Ma forse per adesso è andata male la notte degli Oscar, forse per questo. Sì, ma poi il concetto di divo come icona, un tempo erano delle icone quasi sacre davanti a cui stare in sospensione, appunto la scena di Anita Ekberg di Fellini, si sta come Mastroianni che non riesce ad afferrarla. Soprattutto il tempo, perché attraversate la virtù eroica della bellezza, del fascino, dell'essere desiderate, le ha mantenute intatte, come un santo. Il santo rimane intatto perché ha una virtù eroica, che è la santità, che è la grazia, che lo attraversa, e il corpo rimane incorrotto. Il corpo della diva rimane incorrotto, quindi per questo la diva non deve mostrare più la sua mummia attuale, il segno della decadenza. Dive sono quelle di cui abbiamo delle sacre icone che rimangono incorrotte nella nostra memoria, come appunto Marilyn, come Sophia Loren, tuttora vivente, tuttora, però il suo essere vivente, il suo appalesarsi come signora di una certa età, col parruccone tutta tirata, non offusca la forza della sacra icona di Sophia Loren dei film che l'hanno resa celebre. Alessandro. Buongiorno. Io volevo semplicemente dire che secondo me quello che fa anche la diva è lasciare spazio alla fantasia, cioè le dive di un tempo come quelle che avete nominato, Sophia Loren, faceva un gran lavoro anche la fantasia, nel senso le vedevi solo in quel film. Adesso io ho 35 anni, non ho vissuto a quell'epoca, però adesso, come avete fatto l'esempio prima di Belen Rodriguez, si vede tutto, si sa tutto, e allora scompare quell'elemento di fantasia che alimenta. Lei dice che la reiterazione dell'immagine ne offusca la forza, l'icona dei santi si scopre, viene ostentata, una volta l'anno viene mostrata ai fedeli, viene portata in processione, poi il resto del tempo rimane chiusa, se no si corromperebbe dall'abuso che ne viene fatto. Sì, io volevo fare un esempio di una diva, se un po' sottotono anche per me, al giorno d'oggi Margherita Bui, io la considero insomma seria ma non seriosa, ecco. Sì, cioè, seria, ha un sarcasmo, fa una parte sempre di donna problematica, di scassapalle, di nevrotica, però secondo me c'ha un sarcasmo anche nell'espressione, sì, è una grandissima interprete di uno status femminile tipico del nostro tempo e della nostra condizione socio-geografica, diciamo. Sì, però non, esatto. non è paragonabile a quel. Giuseppe, sei d'accordo? Sì, è un'icona un po' sclerotizzata di quel cliché del cinema italiano, appunto, della donna nevrotica. Beh, di questo siamo circondati, nel bene o nel male. Un po' ripetitivo negli anni, però. Non c'entra però col divismo, perché appunto non c'è nessuna sospensione, nessun desiderio, nessun al di là, insomma, neanche nessun. Invece la sospensione c'è in questo momento per l'informazione del traffico. Tra un istante. Melog, la realtà condivisa. Si sente il tocco di Maria Grazia. E cosa ne sa lui del tocco di Maria Grazia? Buonasera, come sta? Bene, grazie. Sera. Ma almeno le gambe se le potrebbe coprire, no? Tira ancora più su. Maria Grazia è in forma, Stasera è proprio bella. Bella e onesta. Tu in una donna così ti. Mi ci dovrai specchiare, ho capito. Due amici si incontrano e uno dice: sai, ieri ho visto tua moglie. Ci siamo fatti tante risate, ma tante risate che quasi cadevamo dal letto. 800 24 0024. Cerchiamo disperatamente e senza esiti felici di individuare se esistano ancora dive della portata di quelle del passato nel mondo contemporaneo. Claudia Cardinale, mi tolgo tanto di cappello, di una bellezza sconvolgente, unica, singolare, strana. Claudia Cardinale, devo dire che rimane fra le stelle del divismo, meno logorata della Loren oggi, nel senso che appare molto poco, quasi per niente. Fa molto teatro. Quindi, diciamo, anche se non so perché non appare nelle idolatrie comunemente condivise. L'abbiamo citata noi, non ce l'ha citata nessuno. Perché? Eppure bella era, ma diva appunto, era. È abbastanza sottratta allo star system attuale, perché è molto parigina anche nelle sue frequentazioni. Qui è nel magnifico cornuto, illuminata dall'onirismo splendido di Pietrangeli, e rappresenta l'oggetto della sofferenza gelosa di Tognazzi, che è un industriale bresciano dei cappelli, produce cappelli, e essendo lui un traditore, proprio come sintomo continuo, ossessivo e quotidiano, ha paura che la moglie lo tradisca, quindi la immagina in situazioni anche di gruppo, immagina che mentre sta facendo vedere la casa all'assessore, a tutto l'entourage borghese bresciano, si scatena una lotteria cedendo i suoi abiti uno a uno in uno striptease estremo in cui è circondata da 40 uomini. Questa ossessività la rende ancora più bella, la Cardinale diventa appunto un'icona. Come un cornuto all'ossessione che vuole la prova certificata, se le prove non ci sono se le inventa, il cornuto vuole esserlo, ama esserlo, anzi è la sua massima aspirazione. Claudio. Sì, pronto, sono io mi intervenivo perché secondo me oggi come oggi non esiste più, non ci sono più le condizioni per poter parlare di diva con riferimento alle attrici attuali. Secondo me la posizione di diva era molto connessa anche con il ruolo che fino a poi tempo fa giocava la televisione, cioè la televisione oggi ha perso quella sacralità che permetteva all'attrice di diventare diva. Oggi come oggi la decadenza del mezzo televisivo ha portato a anche una decadenza del ruolo della donna all'interno della televisione. E me ne vedeva delle aspiranti ad entrare nell'Olimpo delle dive che poi la televisione ha corrotto. C'è un momento fatale in cui dici: vedi, poteva essere una diva, per colpa della televisione non c'è stata. Io non le vedo. Ma io ad esempio stavo pensando alla Ferilli. Beh, è un pensiero malvagio il suo. Mi viene sempre in mente la coda alla matriciana. Però rispettabile. La Ferilli, c'è stato un momento in cui la Ferilli poteva essere diva, secondo lei? Ma secondo me sì. Poi secondo me si è giocata molto male alcune sue carte. Ha la possibilità, secondo me, anche il potenziale per tornare ad essere diva. Certamente sì, l'atteggiamento le ha. Diciamo che certi interventi sono, ahimè, irreversibili. Però io non poniamo mai limiti alla provvidenza. Michele. Salve, buongiorno. Io volevo dire un personaggio che non è stato nominato, che secondo me è la Carrà. La Carrà. Sì. La Carrà è un magnifico androide, se vogliamo. Infatti è una stupenda icona gay, ma allo stesso tempo è stato un riscatto della casalinga. La Carrà ha mostrato che può esserci erotismo, può esserci appetibilità dei sensi anche dietro i fornelli. Questo è stato il suo grande merito. Secondo me ha giocato molto bene il fatto che comunque di apparire, di non apparire anche. Beh, diciamo, lei sarebbe apparsa anche di più se avessero fatto apparire. Adesso appare in una sorta di spot televisivo su dei, di, sì, delle cose, sì, delle pillole. O quel caschetto immarcescibile. Insomma. Però, devo dire, chapeau, almeno nella televisione ha rappresentato qualcosa sicuramente. Un po' meno nel cinema, anche se lei ha fatto un film insieme a Frank Sinatra, di cui... Sì, lei esordì anche nei Compagni di Monicelli, in cui era anche molto brava. Piace però poi dopo, insomma, la televisione. No, ha avuto un momento felice. Lei, ai tempi del Tucatù, dell'ombelico, era veramente un simbolo erotico, non scherziamo. Nella televisione italiana, dei parrucconi, delle grisaglie e delle beghine infelzate, fu una botta fantastica. Però il massimo del suo successo poi lo ebbe in un periodo, diciamo, di sua maturità, ma splendida maturità. E poi naturalmente fu l'anticipatrice del reality. Le Carambate furono la prima irruzione dell'irrealtà spacciata per iperrealismo. Cecilia. Cecilia. Oh. Si esprima velocemente, sinteticamente. Sinteticamente, io sono una persona estremamente romantica e ho sempre visto le dive del cinema come una cosa irraggiungibile, una cosa un po' ovattata sotto le luci della ribalta. Quindi? Eccetera. Quindi, secondo me, non si trovano dive in Italia, perché l'Italia è tutto ciò che c'è dietro la donna italiana che rovina il divismo in Italia, come già diceva qualcuno. Vabbè, però ne abbiamo prodotte talmente tante che... Illo tempore, adesso come adesso, vediamo la Bellucci, bisogna andare fuori dall'Italia per riuscire ad avere un'aura intorno di... Quindi secondo lei la Bellucci ha questa aura di diva? Sì, anche perché mantiene comunque una sua vita privata, non interviene ai talk show, non fa... Poi c'è questo mistero, questa ambiguità, esatto, sulla sua sessualità, che è in molto attizzante. È una donna, sì, bellissima, è, sì, una donna, una bella, insomma, donna apprezzabilissima. Però non è una grande attrice, però non è una grande attrice. Peccato che non... La Loren e la Cardinale sono eccelse attrici, la Bellucci non è un'attrice. Diciamo, si è costruito un sistema di divismo attorno a una non diva. Esatto. Per fare contento Angelo, però mandiamo avanti una clip. Dimmi la verità, cosa è per te tuo marito? Un cornuto e basta. Tanto per usare un eufemismo. Se lo merita. Non era quello che esattamente volevo, però devo dire, non possiamo non nominare Eddie Vigiona nazionale, Edwige Fenech, la vera responsabile del calo di diottrie nazionale. Due parole sulla Fenech. Qui da maturo Tognazzi rifà il magnifico cornuto a modo suo, facendone anche la regia e Cattivi pensieri, e qui immagina la Fenech, che è sua moglie, è sempre industriale, si immagina questa moglie circondata di uomini, la sua fantasia diventa un turbinio. Ecco perché la Fenech però non è considerata una diva, perché a tutti gli effetti non lo è. Lo è per noi perché siamo appassionati. Beh, nell'exploitation italiano è una diva, nella serie B, in quella serie B fervida di perle. Perché in effetti ha fatto troppi film, questo è il fatto. Sì. Troppi film, e pochi veramente grandi film, pochi grandi film, però sicuramente aveva come icona anche una sua simpatia immediata, oltre alla bellezza prorompente, insomma, poteva anche, però è cinema che già stava agonizzando comunque al giro degli anni 70-80. Invece la prossima e ultima della rassegna del passato forse lo merita. Nanuzzo, che fa? Non sei a scuola? No, mentre ci stavo andando sono caduto. Gesù, che te facesti? Non è niente. Vieni figlio, vieni. Non ti preoccupare, tentura di odio e... Ora ci soffio sopra e passa tutto. Metteci. Questo è stato un altro elemento scardinatore dei midolli spinali di tanti giovani. Malizia, te lo ricordi Malizia? Come no? Certo. Malizia si passò dal collana all'autoreggente improvvisamente. Fu il salto nell'immaginario maschile. Laura Antonelli, bellissima, che sale sulla scaletta e sotto il ragazzo che li guarda sotto la gonna. Laura Antonelli aveva un viso strepitoso, splendido, da diva che meritava un cinema molto più intenso, molto più ampio. Lei ha fatto anche un Venere in pelliccia. Non male, però. Sì, fatto da un grande autore sarebbe stato strepitoso, perché era perfetta, ragazza di Pola, no? Ragazza anche con qualcosa di slavo. Veramente bellissima. Da personaggio di Apollinaire, insomma. Cioè, sfortunata meritava nella sua vita personale, perché certo, ha avuto vicende personali abbastanza tristi. Vivente, ma allo stesso tempo dimenticata perché per una serie di circostanze è uscita dal giro, però rimane immarcescibile anche nell'immaginario di Angelo. Angelo, buongiorno. Salve dottor Nicoletti, buongiorno e saluto e sorte. Quanti anni ha lei, Angelo? Quanti anni? Io sono del 64. Del 47 anni. 47 anni, quindi sì, ha l'ambito nell'età giusta. Certo, infatti lei mi ha fatto rivivere un momento molto particolare. Si ricorda quando uscì Malizia, fu un colpo, non so perché, Fu sì, un cambio epocale, fu. Ma sì, perché guardi che noi eravamo allora 13-14 anni, ha sconvolto la nostra generazione praticamente, perché poi io rivedo il Laura Antonelli, una bellezza straordinaria, non solo per la bellezza, ma anche per l'erotismo, la sensualità che questa donna... Va bene, noi ci siamo crogiolati sul passato, ancor più sono crogiolati Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che hanno curato la rassegna dei ricordi, ma sull'attualità non è venuto fuori nulla, e questo ci rattrista moltissimo. Melog, la realtà condivisa.